Buongiorno da Carlo Cavalletti, al microfono per la prima parte di Scatola Sonora. Una prima parte che, come sempre, è a cura di Lorenzo Chiera e oggi si avvale della collaborazione alla console di Enzo Ceffrei ed ospita ancora oggi una puntata del breve ciclo sulla musica contemporanea cinese curato da Emanuele Pappalardo, che è qui con noi. Buongiorno Emanuele, a te la parola. Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 3. E lasciamoci introdurre, come ormai consuetudine, al tema di questo quarto incontro sulla musica contemporanea cinese dalle parole di Luo Zhongrong. Luo Zhongrong è un settantenne compositore cinese tra i più noti. Se si vuole tracciare una storia del serialismo, si dovrebbe partire dalla Cina. Ci sono delle casuali ma interessantissime coincidenze tra il serialismo ritmico e timbrico di compositori come Berg e Messiaen e i principi strutturali dello Shifan Luguo, un genere di musica rituale cinese con sole percussioni. Messiaen incominciò a lavorare con serie ritmiche e timbriche intorno alla metà del nostro secolo, mentre i musicisti cinesi lo fanno da molti secoli. Senza dubbio interessanti queste parole di Luo Zhongrong riguardo l'attenzione che certe musiche tradizionali cinesi hanno nei confronti di principi di matrice strutturalista. Luo Zhongrong ha 70 anni e vive a Pechino, dove insegna composizione nel Conservatorio Centrale, uno dei due conservatori che ci sono a Pechino. Luo Zhongrong, come Zuyan Er di Shanghai, che abbiamo incontrato il primo giorno, la prima puntata in questo ciclo, è considerato un vero punto di riferimento musicale, ma soprattutto etico, da tutti i musicisti cinesi. E sono soprattutto i giovani compositori ad ammirare il rigore e la straordinaria capacità di rinnovarsi di Luo Zhongrong. Nelle frasi che abbiamo ascoltato poco fa, Luo citava un procedimento, quale lo Shifan Luogu, una vera e propria serializzazione dei ritmi che si ritrova ancora in certe musiche tradizionali. E questo procedimento lo si fa risalire almeno alla dinastia Ming, cioè a circa 300 anni fa. Tanto per cercare di essere il più chiaro possibile, diciamo che si tratta di una certa sequenza ritmica che ripete sempre se stessa. Però ovviamente un procedimento del genere produrrebbe una noia mortale. Ecco quindi che interviene l'elemento timbrico, cioè l'uso degli strumenti, a creare una varietà. Cioè, mi spiego meglio. La sequenza ritmica viene ripartita tra i vari strumenti a percussione a disposizione, per cui io avrò sempre una stessa e riconoscibile serie ritmica, ma continuamente variata per ciò che riguarda il timbro strumentale. Direi che forse vale la pena di ascoltare un frammento di questo genere di musica tradizionale che farò seguire quindi immediatamente, senza soluzione di continuità, dall'ascolto di un brevissimo estratto dal secondo movimento di un quartetto d'archi di Luo Zhongrong, un lavoro interamente basato proprio su questo principio dello Shifan Luogu. La qualità delle registrazioni non è certo eccellente, ma si tratta veramente di avventurosi riversamenti eseguiti da un audiocassetta a casa del compositore a Pechino. Ma ascoltiamo lo Shifan Luogu, un brevissimo estratto, e quindi il quartetto, un frammento dal secondo quartetto per archi di Luo Zhongrong, un lavoro del 1985. Thank you. Era un frammento di Chifan Luogu, un frammento dal secondo movimento del quartetto per archi del 1985 del compositore cinese Luo Zhongrong, in cui il compositore applica gli stessi procedimenti di serializzazione ritmica dello Chifan Luogu, questa forma di serializzazione appunto che si è usata nella musica tradizionale cinese. Beh, il quartetto suona molto occidentale, per esattezza la Bartok, nonostante che il compositore mi abbia confessato di non essere mai stato affascinato dalla musica di Bartok. Tuttavia il dato più significativo mi sembra vado rintracciato nella volontà di cercare di fondere due culture, cioè quella occidentale per l'appunto e quella cinese, mediante un intervento di matrice strutturalista. Anche per Luo Zhongrong, nonostante l'età, riuscire in questo intento di fusione rappresenta lo scopo primario della sua ricerca musicale, almeno dalla fine degli anni 70 ad oggi. Un altro aspetto a mio avviso interessante, che potrebbe costituire materie di studi più approfonditi, è come mai esiste una naturale affinità tra la musica di Bartok e certa musica tradizionale cinese, di conseguenza con la musica anche di molti compositori contemporanei cinesi. Liang Maochun, uno dei musicologi cinesi di stampo progressista più famosi attualmente in Cina, suggerisce l'ipotesi di rapporti antichi tra i cinesi e gli ungheresi, in quanto questi ultimi hanno avuto contatti più che sporadici con le etnie cinesi di confine. Va aggiunto a questo, ovviamente, come suggerisce Luo Zhongrong, l'ammirazione dei compositori cinesi per la statura morale di Bartok, attentissimo studioso della musica tradizionale dell'area balcanica. In più non bisogna dimenticare che l'Ungheria era un paese socialista, e via dicendo, insomma, tutte ipotesi che ovviamente vanno verificate. Ma torniamo alla musica di Luo Zhongrong, con un lavoro più recente, del 1989. Un lavoro per zeng e orchestra occidentale. Lo zeng è uno strumento tradizionale cinese con corde tese su una tavola armonica e dei ponticelli mobili. Questo lavoro mi sembra particolarmente interessante se lo leggiamo sempre nell'ottica del tentativo proprio di riuscire a trovare una sintesi tra due mondi, cioè quello occidentale e quello orientale. Ma ascoltiamo un frammento di questo lavoro, il titolo è The Faint Fragrance e il compositore mi ha spiegato che ha tratto l'ispirazione per questo brano dalla appena percepibile fragranza di un fiore tipicamente cinese, fragranza che si sente alla debole luce della luna al tramonto. Era un estratto da The Faint Fragrance, questa debole fragranza che il compositore Luo Zhongrong ha voluto evocare in questo lavoro per Zeng, Orchestra Occidentale, un lavoro del 1989. Beh, che dire, dopo l'ascolto di questo lavoro a Pechino, insieme al compositore, ho detto al maestro Luo che avevo avuto l'impressione di entrare, diciamo così, genericamente nella cultura orientale e di uscirne, per poi entrare in un'area culturale più occidentale e quindi uscirne delicatamente di nuovo e così via. Tutto ciò senza alcuna soluzione di continuità, in un continuo gioco di contrasti più che conflitti. Luo Zhongrong mi ha detto che se tutto ciò era stato percepito, poteva dirsi soddisfatto del suo lavoro. Questo lavoro mi sembra un tentativo nella direzione di una conciliazione tra due mondi così lontani. Inoltre c'è da dire che è un brano interamente seriale. Sì, sembrerà strano, ma è proprio un brano con una ferra costruzione seriale. Certo, di una serialità, come dire, opportunamente cinesizzata, adattata alle esigenze cinesi. Non si tratta di prendere dall'Occidente un procedimento e trapiantarlo così com'è. I cinesi hanno saputo adattare alle esigenze della loro musica un principio quale è quello dodecafonico, che almeno a molti compositori, e soprattutto quelli della generazione dei 60, 70 anni e oltre, sembra ancora interessare molto. Comunque, Luo Zhongrong è un compositore seriale, anzi direi proprio un compositore dodecafonico. Anzi, è stato il primo a usare proprio tale metodo in Cina nel 79, e come si vede in tempi molto recenti. Si sarà potuto ascoltare anche come in fondo la partita qui, come quasi in tutti i lavori più interessanti che abbiamo ascoltato finora nel corso di queste trasmissioni, si sarà potuto ascoltare, dicevo, come in fondo la partita del confronto tra due mondi sia giocata prevalentemente sul piano timbrico. Anche questo mi sembra un aspetto molto interessante, in quanto nella cultura cinese, nella musica tradizionale, l'attenzione al timbro è fortemente sviluppata. Potremmo dire che la dimensione timbrica per i cinesi riveste la stessa importanza che per noi ha avuto la tonalità. Si dice che uno strumento tradizionale, quale è il guqin, uno strumento con 7 corde tese sopra una cassa di risonanza ma senza ponticelli mobili o tasti, si dice che questo strumento possa produrre circa 400 timbri diversi. Ora, anche se consideriamo una tale affermazione come una esagerazione, rimane tuttavia una gamma timbrica di tutto rispetto a testimonianza di questo interesse per la dimensione timbrica. Come d'altra parte assolutamente primario nella musica tradizionale cinese, la valutazione della dimensione orizzontale, piuttosto che quella verticale, diciamo la dimensione armonica. L'armonia nasce dall'incontro di più linee che si sovrappongono e che molte volte generano anche delle frizioni, delle dissonanze microtonali che al nostro orecchio eurocentricamente molto limitato suonano alquanto strane. Ma ascoltiamo almeno un brevissimo frammento di musica tradizionale cinese per guqin solo. Ricordo appunto che il guqin è questo strumento tradizionale con 7 corde tese su una cassa di risonanza ma senza ponticelli. Lo ascoltiamo per renderci conto della gamma timbrica che possiede questo strumento. Thank you. questo breve estratto di musica tradizionale per Guccin, torniamo alla musica contemporanea e credo sia interessante a questo punto ascoltare una breve lirica per soprano e pianoforte sempre di Luo Zhongrong. Un lavoro del 79 dove, riprendendo il discorso sul serialismo in Cina, per la prima volta viene usato un metodo seriale per l'organizzazione delle altezze. Il brano si intitola Peking Lotus e il testo è tratto da una poesia di anonimo della dinastia Han ed esprime la nostalgia di vagabondi erranti lontani dalla propria terra. Peking Lotus di Luo Zhongrong, un lavoro del 1979, una brevissima lirica seriale, anzi dodecafonica, di Luo Zhongrong, il primo lavoro dodecafonico in Cina. Trovo non solo sia un lavoro di grande finezza espressiva, ma è sorprendente come riescano a convivere un sapore tipicamente cinese dovuto a una certa pentatonia aleggiante e atteggiamenti più decisamente occidentali di matrice espressionista, come si sarà potuto ascoltare. Il rapporto con l'innovazione sul come mantenere certi radici nella tradizione, ma allo stesso tempo essere aperti ai mutamenti che sempre più incalzanti si susseguono in questi ultimi anni e di conseguenza sul come conciliare una massiccia presenza occidentale con una cultura che in fondo è tradizionalmente conservatrice, qual è quella cinese, tutto ciò, ecco, costituisce un argomento quanto mai attuale nell'attuale dibattito culturale in Cina. Ecco, anche Luo Zhongrong mi confessava la rilevanza che queste tematiche hanno oggi in tutti i dibattiti su problemi specificamente musicali. Tuttavia, con saggezza tipicamente cinese, mi diceva che lui si sente molto legato al passato e non in conflitto e che cerca sempre di attuare la massima del lasciar andare la corrente del fiume dove è naturale che vada, senza forzare il corso degli eventi. Tuttavia, se per ciò che riguarda il rapporto con la musica occidentale, alcuni compositori abbiamo visto come stiano indicando delle possibili vie, rimangono aperti alcuni interrogativi di fondo. Per prima cosa, come è possibile che la nuova musica abbia un così grande sviluppo, qual è quello a cui stiamo assistendo oggi, in un paese dove l'individualismo, l'innovazione, l'originalità sono da sempre considerati come elementi non essenziali? E ancora, La musica d'avanguardia non rappresenta piuttosto una rottura profonda con la tradizione? E può quindi la musica contemporanea essere compatibile con una cultura plurisecolare, con il vecchio volto della Cina? Tutti questi interrogativi non sono da poco e attualmente non è facile rispondervi. Ecco, ma vorrei concludere questo incontro con un altro ascolto, tratto ancora da un lavoro dell'anziano maestro cinese Luo Zhongrong. Questa volta è un lavoro molto recente, del 1993, per Guqin, sempre per questo strumento tradizionale cinese che abbiamo ascoltato anche nella sua veste più tradizionale precedentemente, quindi per Guqin e orchestra occidentale. Il lavoro si intitola Tune the Qin. Anche qui lo strumento, con la sua sonorità tipicamente cinese, entra ed esce dalla compagine orchestrale che realizza un suono, per così dire, invece più occidentale. Quindi ascoltiamo un frammento da Tune the Qin, un lavoro di un paio d'anni fa di Luo Zhongrong. Ascoltiamo. Frammento da Tune the Qin, un lavoro di Luo Zhongrong del 1993 per Guqin e orchestra occidentale. Con questo ascolto concludo anche questo quarto, penultimo incontro sulla musica contemporanea cinese. Ringrazio gli ascoltatori e cedo la parola a Carlo. Bene, grazie a Emanuele Pappalardo, che tornerà con noi domani per l'ultima puntata di questo ciclo sulla musica contemporanea cinese. Scatola Sonora termina qui la sua prima parte, e la seconda sarà fra 15 minuti circa, come sempre i concerti doc a cura di Ilio Catani. A più tardi.